Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Tony Servillo legge Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia. I due fratelli Colasberna e gli altri soci della cooperativa edilizia Santa Fara aspettavano l'arrivo del capitano. Stavano seduti in fila, vestiti di nero, e i due fratelli con neri scialli spugnosi, la barba lunga, gli occhi arrossati, aspettavano in una sala della stazione carabinieri di Esse, immobili, gli occhi fissi ad un bersaglio colorato dipinto sul muro e alla scritta che diceva «Luogo per scaricare le armi». Bruciavano di vergogna per il luogo in cui si trovavano e per l'attesa. Niente è la morte in confronto alla vergogna. Lontana da loro, seduta in punta alla sedia, stava una giovane donna. Era arrivata dopo di loro, voleva parlare al maresciallo, così disse al piantone. Il piantone disse che il maresciallo aveva da fare, stava per arrivare il capitano e aveva da fare. Lei disse, aspetterò. E sedette sull'orlo della sedia, le mani che facevano venire il nervoso a guardargliele, tanto le muoveva. La conoscevano di vista. Era la moglie di un potatore che non era del paese. Dal vicino paese di B era venuto dopo la guerra a stabilirsi a S, dove si era sposato, e tra la dote della moglie e il lavoro era considerato nel paese povero un benestante. I soci della cooperativa Santa Fara pensavano «avrà litigato col marito e viene a ricorrere». Ed era l'unico pensiero in cui dalla vergogna che sentivano si distraessero. Si sentì un'automobile arrivare nel cortile e spegnersi, poi scatti di tacchi lungo il corridoio. E il capitano entrò nella sala dove gli uomini aspettavano, mentre il maresciallo apriva la porta del suo ufficio e si irrigidiva nel saluto con la testa così alta che pareva volesse scrutare il soffitto. Il capitano era giovane, alto e di colorito chiaro. Dalle prime parole che disse, i soci della Santa Fara pensarono «continentale», con sollievo e disprezzo insieme. I continentali sono gentili, ma non capiscono niente. Di nuovo in fila sedettero davanti alla scrivania, nell'ufficio del maresciallo. Il capitano seduto nella sedia a braccioli che era del maresciallo, il maresciallo in piedi. E di lato, seduto davanti alla macchina da scrivere, c'era il carabiniere Esposito. Aveva una faccia infantile il carabiniere Esposito, ma i fratelli Colasberne e i loro soci dalla sua presenza ebbero mortale inquietudine, il terrore della spietata inquisizione, della nera semenza della scrittura. Bianca campagna, nera semenza, l'uomo che la fa sempre la pensa, dice l'indovinello della scrittura. Il capitano disse parole di condoglianza e si scusò per averli convocati in caserma e per il ritardo. Pensarono ancora, continentale, quanto sono educati i continentali, ma non perdevano di vista il carabiniere Esposito, che stava con le dita lievemente posate sui tasti della macchina, quieto e intento come il cacciatore che il dito sul grilletto attende la lepre al chiaro di luna. «È curioso», disse il capitano, come continuasse un discorso interrotto, «come da queste parti ci si sfoghi in lettere anonime. Nessuno parla, ma per nostra fortuna, dico, di noi carabinieri, tutti scrivono. Dimenticano di firmare, ma scrivono. Ad ogni omicidio, ad ogni furto, ecco una decina di lettere anonime sul mio tavolo. Ed anche delle liti di famiglia, dei fallimenti dolosi, mi scrivono. E degli amori dei carabinieri. Sorrise al maresciallo, forse alludendo, pensarono i soci della Santa Fara, al fatto che il carabiniere Savarino faceva l'amore con la figlia del tabaccaio Palizzolo. Tutto il paese lo sapeva e si prevedeva prossimo il trasferimento di Savarino. Per il caso Colasberna, continuò il capitano, ho ricevuto già 5 lettere anonime. Per un fatto accaduto l'altro ieri è un buon numero. E ne arriveranno altre. Colasberna è stato ucciso per gelosia, dice un anonimo, e mette il nome del marito geloso. Cose da pazzi, disse Giuseppe Colasberna. Lo dico anch'io, disse il capitano, e continuò. è stato ucciso per errore, secondo un altro, perché somigliava a un certo Perricone, individuo che, a giudizio dell'informatore anonimo, avrà presto il piombo che gli spetta. I soci con una rapida occhiata si consultarono. «Può essere», disse Giuseppe Colasberna. «Non può essere», disse il capitano, «perché il Perricone di cui parla la lettera ha avuto il passaporto 15 giorni addietro e in questo momento si trova a Liegi, nel Belgio. Voi forse non lo sapevate, e certo non lo sapeva l'autore della lettera anonima, ma ad uno che avesse avuto l'intenzione di farlo fuori, questo fatto non poteva sfuggire». Non vi dico di altre informazioni ancora più insensate di questa, ma ce n'è una che vi prego di considerare bene, perché a mio parere ci offre la traccia buona. Il vostro lavoro, la concorrenza, gli appalti. Ecco dove bisogna cercare. Altra rapida occhiata di consultazione. Non può essere, disse Giuseppe Colasberna. Sì che può essere, disse il capitano, e vi dirò perché e come. A parte il vostro caso, ho molte informazioni sicure sulla faccenda degli appalti. Soltanto informazioni, purtroppo, che se avessi delle prove... Ammettiamo che in questa zona, in questa provincia, operino 10 ditte appaltatrici. Ogni ditta ha le sue macchine, i suoi materiali, cose che di notte restano lungo le strade o vicino ai cantieri di costruzione. E le macchine sono cose delicate. Basta tirar fuori un pezzo, magari una sola vite, e ci vogliono ore o giorni per rimetterle in funzione. E i materiali, nafta, catrame, armature, ci vuole poco a farli sparire o a bruciarli sul posto. Vero è che vicino al materiale e alle macchine spesso c'è la baracchetta con uno o due operai che vi dormono. Ma gli operai per l'appunto dormono. E c'è gente invece, voi mi capite, che non dorme mai. Non è naturale rivolgersi a questa gente che non dorme per avere protezione? Tanto più che la protezione vi è stata subito offerta, e se avete commesso l'imprudenza di rifiutarla, qualche fatto è accaduto che vi ha persuaso ad accettarla. Si capisce che ci sono i testardi, quelli che dicono no, che non la vogliono, e nemmeno con il coltello alla gola si rassegnerebbero ad accettarla. Voi, a quanto pare, siete dei testardi, no? O soltanto Salvatore lo era? «Di queste cose non sappiamo niente», disse Giuseppe Colasberna. Gli altri, con facce stralunate, annuirono. «Può darsi», disse il capitano, «può darsi, ma non ho ancora finito. Ci sono dunque 10 ditte, e 9 accettano o chiedono protezione. Ma sarebbe un'associazione ben misera, voi capite di quale associazione parlo, se dovesse limitarsi solo al compito e al guadagno di quella che voi chiamate guardiania». La protezione che l'associazione offre è molto più vasta. Ottiene per voi, per le ditte che accettano protezione e regolamentazione, gli appalti a licitazione privata. Vi dà informazioni preziose per concorrere a quelli con asta pubblica. Vi aiuta al momento del collaudo. Vi tiene buoni gli operai. Si capisce che se 9 ditte hanno accettato protezione, formando una specie di consorzio, la decima che rifiuta è una pecora nera. Non riesce a dare molto fastidio, è vero, ma il fatto stesso che esista è già una sfida e un cattivo esempio. E allora bisogna, con le buone o con le brusche, costringerla a entrare nel gioco o a uscirne per sempre annientandola. Giuseppe Colasberna disse: «Non le ho mai sentite queste cose». E il fratello e i soci fecero mimica di approvazione. «Ammettiamo», continuò il capitano come se non avesse sentito, «che la vostra cooperativa, la Santa Fara, sia la pecora nera della zona, quella che non vuole entrare nel gioco, che fa onestamente i suoi conti sui bandi d'appalto e si presenta a concorrere senza protezioni. E qualche volta, specie nel sistema del massimo e minimo, riesce a fare l'offerta giusta, appunto perché ha fatto onestamente i conti. Una persona di rispetto, come voi dite, viene un giorno a fare un certo discorso a Salvatore Colasberna, un discorso che dice e non dice, allusivo, indecifrabile, come il rovescio di un ricamo, un groviglio di fili e di nodi, e dall'altra parte si vedono le figure. Colasberna non vuole o non sa guardare il rovescio di quel discorso. e l'uomo di rispetto si offende. L'associazione passa all'azione, un primo avvertimento, un piccolo deposito che va a fuoco o qualcosa di simile, un secondo avvertimento, una pallottola che vi sfiora di sera sul tardi verso le 11, mentre state per rincasare. I soci della Santa Fara eludevano lo sguardo del capitano, si guardavano le mani e poi alzavano gli occhi al ritratto del comandante dell'arma, a quello del presidente della Repubblica, al crocefisso. Dopo una lunga pausa, il capitano colpì il centro della loro apprensione. «Mi pare che qualcosa di simile sia accaduto a vostro fratello», disse, «sei mesi addietro, mentre rincasava, verso le 11. Non è vero?» «Non l'ho mai saputo», farfugliò Giuseppe. «Non vogliono parlare», intervenne il maresciallo. «Anche se li levano di mezzo, uno dopo l'altro, non parlano. Si contendono farsi ammazzare». Il capitano lo interruppe con un gesto. «Senti», disse, «c'è di là una donna che aspetta». «Vado subito», disse il maresciallo un po' mortificato. «Non ho altro da dirvi», disse il capitano. «Io vi ho già detto molto e voi non avete niente da dirmi. Prima di andarvene, vorrei che ciascuno di voi scrivesse su questo foglio nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo». «Io scrivo lento», disse Giuseppe con la sberna. Gli altri dissero che anche loro scrivevano lentamente e con stento. «Non importa», disse il capitano, «abbiamo tempo». Accese una sigaretta e attentamente seguì la fatica dei soci della Santa Fara sul foglio. Scrivevano come se la penna pesasse quanto una perforatrice elettrica, come una perforatrice vibrante per l'incertezza e il tremito delle loro mani. Quando finirono suonò per il piantone. Il piantone entrò insieme al maresciallo. «Accompagna i signori», ordinò il capitano. «Cristo se sa trattare», pensarono i soci. E per la gioia di essersela cavata quasi con niente, il quasi restava agganciato a quei loro pezzi di scrittura che il capitano aveva voluto, e per essere stati chiamati signori da un ufficiale dei carabinieri, uscirono che avevano dimenticato il lutto che portavano e avevano voglia di correre come i ragazzi all'uscita della scuola. Il capitano intanto andava confrontando la loro scrittura a quella della lettera anonima. Era convinto che uno di loro aveva scritto la lettera e, nonostante la innaturale inclinazione e deformità, non c'era bisogno di un perito per constatare, nel confronto con le generalità che aveva scritto sul foglio, che era stato Giuseppe con la sberna. L'indicazione che la lettera anonima forniva era dunque attendibile, sicura. Il maresciallo non capiva perché il capitano stesse applicato a studiare quelle scritture. «È come spremere una cote, non esce niente», disse alludendo ai fratelli con la sberna e soci, e a tutto il paese e alla Sicilia intera. «Qualcosa si cava sempre», disse il capitano. «Contento tu, contenti tutti», pensò il maresciallo, che nei suoi pensieri si prendeva lo sfizio di dare del tu anche al generale Lombardi. «Quella donna?» domandò il capitano avviandosi per ripartire. «Il marito», disse il maresciallo, «se n'è andato l'altro ieri in campagna a potare e ancora non è tornato. Sarà rimasto a fare tavolata in una masseria, un agnello grasso e vino, e si sarà gettato a dormire in una pagliera, ubriaco fradicio. Stasera torna, ci metto la testa per scommessa». «L'altro ieri. Se fossi in te mi metterei a cercarlo», disse il capitano. «Signor sì», disse il maresciallo. Tony Servillo ha letto Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.